Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera e benvenuti all'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e anche con la seconda puntata dello speciale che questa settimana stiamo dedicando al tema delle strade intelligenti. Ieri sera abbiamo parlato dei 60 chilometri dell'autostrada mediterranea che saranno attrezzati con tutte le tecnologie necessarie a sperimentare le cosiddette self-driving car, le auto che si guidano da sole. Ma senza arrivare a tanto, nei prossimi anni ANAS ha in programma di dotare di infrastrutture digitali una parte consistente della rete autostradale, infrastrutture attraverso cui erogare un certo numero di nuovi servizi. Per parlarcene, come anche ieri sera, abbiamo in linea con noi Luigi Carrarini, che è responsabile dell'unità infrastrutturazione tecnologica e impianti di ANAS SPA ed è anche project manager appunto del progetto Smart Road. Buonasera Carrarini, bentornato. Buonasera dottor Meis e grazie ancora dell'invito. Senta, allora, 2500 chilometri che avete identificato che nei prossimi anni riceveranno una serie di dotazioni digitali, diciamo così. Intanto qual è l'aspetto più importante, la dotazione più importante? Allora, le due diciamo, infrastrutture tecnologiche più importanti sono sicuramente la necessità di avere fibra ottica sui nostri 2500 chilometri di strade e raccordi autostradali, ma soprattutto estendere il sistema di Wi-Fi in motion sulla parte di autostrade cosiddette di interesse primario in ANAS. Ok, quindi sostanzialmente ci sarà la possibilità a bordo mentre si viaggia a bordo del veicolo di avere una connessione Wi-Fi costante, d'accordo? È così? Sì, è così. Quindi avete deciso, puntiamo sul Wi-Fi, che però non è una tecnologia che nasce per la connettività in movimento, è una tecnologia che nasce per applicazioni statiche a corto raggio, no? Nasce per sistemi a casa. Brevemente le dico che il sistema si basa sul fatto che abbiamo degli access point lungo l'autostrada a circa 300 metri uno dall'altro. È chiaro che nel passaggio del telefonino di connessione da un access point all'altro, il Wi-Fi così come lo conosciamo tradizionale impiegherebbe 5 secondi, no? Certo. Ma sì, insomma, noi non possiamo permetterci addirittura di perdere comunicazione dati per qualche secondo, soprattutto quando abbiamo a che fare con servizi per la sicurezza stradale. Certo, quindi il problema è fare una rapidissima transizione da un ripetitore del Wi-Fi all'altro. Noi abbiamo risolto in due modi. Il primo è che il telefonino velocemente fa negoziazione con l'antennina e si fa riconoscere, ma poi abbiamo anche detto, ok, mi collego con la prima antenna, ma nel frattempo cerco la migliore antenna a seguire. Nel momento in cui ho trovato un segnale importante, lascio la prima. Quindi di fatto ho un interrotto collegamento su tutta l'autostrada. Mi fa qualche esempio dei servizi che pensate di far transitare poi attraverso questo canale Wi-Fi? Noi vogliamo dare informazioni precise e dettagliate all'utente che sta sulle nostre strade. Quindi la prima cosa, infomobilità alla portata di tutti e direttamente sul veicolo. E personalizzate, questo è importante perché oggi riceviamo delle informazioni totalmente neutre, no? Invece qui uno potrebbe ricevere informazioni sulla base della sua destinazione, non solo. Assolutamente, no? Noi vogliamo dare delle informazioni per l'utente che sta sulla nostra strada, vogliamo dare dei percorsi alternativi. Perfetto. Addirittura, dottore, nella propria lingua, perché noi nel momento certo. In cui conosciamo il suo telefonino siamo in grado di dare messaggistica nella lingua nativa. Certo. Poi un altro esempio? Un altro esempio, per esempio, è l'SOS on board. Certo. Sulle nostre macchine ciascuno di noi può fermarsi in tutta sicurezza, non deve scendere più dal veicolo. Sappiamo benissimo tutte le conseguenze che abbiamo nel momento in cui scendiamo su un tratto autostradale. Ecco, noi ci ritroveremo sul nostro telefonino la possibilità SOS graficamente definita. Quindi in tutta sicurezza possiamo collegarci con le nostre sale operative. Non so se c'è qualcos'altro. Guardi, accanto ai classici servizi di infomobilità e traffico che vogliamo dare al nostro utente, ma pensiamo anche a dare avvisi agli automobilisti sulle situazioni di emergenza, per la guida sicura. Possibilità di avere, diciamo, prenotazione di parcheggi intelligenti per i mezzi pesanti, perché il problema dei mezzi pesanti è un problema molto serio. Ecco, da questo punto di vista, invece, pensando proprio ai mezzi pesanti, questa infrastruttura che cosa consentirà di fare? Una cosa che ci proponiamo di fare sulle nostre strade è monitorare, ad esempio, tutti aperto gli ingressi delle cosiddette merci pericolose. Il servizio di monitoraggio che avremo su strada permetterà di riconoscere in tempo reale le cosiddette targhe Kemmler, quelle targhe di colore arancione, sì, che ha con il numero di pericolo, sì, l'ADR, col codice. E infatti, l'ADR, sì, noi, sì, possiamo, sì, in questo momento leggere e monitorare, sì, in tempo reale tutte le merci pericolose sulle nostre strade. E per esempio evitare che un camion di esplosivi passi vicino ad un camion, non so, di GPL, ecco, cose di questo genere. Guardi, lei dice una cosa molto interessante, ma pensiamo ad esempio invece a un mezzo di benzina piuttosto che GPL, altro, che entra in galleria. Un domani che c'è un problema, noi possiamo dare delle informazioni non solo all'utenza, ma anche agli operatori dell'emergenza. Un vigile del fuoco che deve entrare in una galleria, sapendo con che ha a che fare, si attrezza e quindi interviene al meglio. Va bene, grazie, grazie allora Carrarini e buon lavoro, mi sembra che ne abbiate parecchio da fare. Grazie tante a lei e ai suoi ascoltatori. È tutto anche per questa sera, appuntamento come sempre a domani, buona serata. Scoprite come guidare il tempo verso il futuro su audinnovative.it. Future Needs Stories.